Le strade della comunicazione. La gestione dell'arte e del suo mercato. Intorno a questo nuovo scenario ruotano nuove figure professionali e nuove opportunità di lavoro, in un campo senza dubbio attraente. Critici, organizzatori di eventi culturali, consulenti, con la passione per l'arte e competenze manageriali. Ecco il profilo di cui parliamo oggi. Manager museale. Ha responsabilità ampie e diverse, dalle collezioni presenti nel museo alla programmazione economica dell'attività. Ha competenze culturali, ma anche manageriali, necessarie per la gestione complessiva. Tra i suoi compiti, la valorizzazione del patrimonio, i rapporti con il pubblico, la gestione delle risorse umane e la sicurezza delle strutture. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati dell'Università Yulm. www.yulm.it.